paradosso spaziale. L'arte come non l'avete mai. Un programma di Fedra C. Boscaro e Stefano W. Pasquini. Ok. You in my life, just give me back mine. I think it's about time you. There is a room in your life for more pairs of shoes. It's all about you, so you're only in love with yourself, obsessed with how well you're coming across. Get lost. Now I can see I was just starting to match with the purse. I'm not your poodle, no. Please, why are you acting so cocky? You can meet like your chicks bounce like volley, 'cause I know from our night at pillow talk time you call my phone sobbing and sounding all sorry. You were so silly acting all gobby, 'cause I just ain't another girl like E. Plus you ain't worth another girl like me. I can do way better than you, it's all glory. Now I'm pulling the chains, always flush out my veins, out the drain. Flush, you're like a human, won't sink. You left skid marks, but the scars don't last. Flush, time to be me again. Flush, each bubble, meet my friends. Flush, sorry love, what was that, what I heard was nah, yeah. I've been too nice, too nice, too nice. You can't afford to be scorched. I think you've been smoking way too much bush. I've been too nice, too nice, too nice. And you're talking way too much. Before you get here, questa puntata si avvale della super mega galattica co-conduzione di spaziale, problemi tecnici, Coxo, problemi tecnici spaziali. Molti problemi tecnici spaziali, molti. Qualche errore? No, uno per caso. Io sono Clelia Sed, anzi Clelia W. Sed, ecco. Ricordarti, ecco. Infatti, la super mega co-conduttrice del mese di aprile che ha lasciato questa suspense è in veste W, Clelia Sed. Esatto! Che siamo anche un po' confuse perché anche ieri e anche avanti. E benvenuti alla 139esima puntata del Cozzo. Benvenuti. Benvenuta di nuovo anche a te, di nuovo, perché in realtà noi ci siamo già viste l'altro, la puntata della settimana prossima, l'abbiamo registrata la settimana ieri. Ma perché vuoi confondere già subito? Perché io sono confusa, solo per la partecipazione orizzontale, autoreferenziale e quant'altro si può dire, quant'altro si può dire. Possiamo dire che abbiamo un sacco di ospiti oggi. Quant'altro, quant'oltre, quanto meno, quanto più, ma comunque finalmente la già annunciata co-conduttrice del mese di aprile, che per il primo giovedì ci ha fatto il pesce, che esatto. Era tanto malata, molto malata. Come siamo riusciti a dire in qualche modo durante la sigla, Clelia Sed che si veste di W per tutto il mese di aprile, esatto, da qui a venire. Esatto, e mi vesto molto volentieri perché mi vesterò di questo W, ma anche dell'errore, come tu ben sai. Eh sì, infatti la parola errore che mi era sguillata prima in realtà ha era un voluta. Senso profondo, ha un senso profondo, e mai il Coxo può essere sostenitore del movimento, ma in realtà c'è anche il movimento errorista. Sì, è capitato sì, sì. Di... Io sono un errorista, io non sapevo, ma esisteva davvero, no? Sì, l'hanno fondato un gruppo che è stato anche qui a Bologna in residenza per il secondo premio di arte partecipativa. Cara, io ne parlo dal 2007, adesso non per dire, ma una banda di erroristi ben nutrita. Come mai si chiamavano loro poi? Non lo so. Io, cavoli, non me lo ricordo più. Lo so, lo diremo nelle prossime puntate. Comunque, sai, tutti inventiamo le cose contemporaneamente, cioè l'errore nell'aria, capisci? Siamo qua pronti ad accoglierlo. Tra l'altro, stavo pensando che sto iniziando a scrivere un libricino che si chiama L'errore, no, l'amore è una mera voglia. L'amore, ci deve essere un gioco di senso. No, non è tanto quello. È sugli errori che bisogna assolutamente commettere, quelli amorosi, no? Quelli amorosi che dobbiamo assolutamente fare. Magari poi te ne consiglio qualcuno. Ti ringrazio, cara. Magari un po' quando la puntata diventa un pochino più. Ma intanto siamo qui per la 139esima puntata del Coxo. Finalmente sei arrivata qui studio in studio. Sei già stata ospite in tutte le puntate che abbiamo fatto insieme erano in differita. Esatto. Finalmente ti ho nello studio del Coxo. Da domani su www.coxospaziale.blogspot.com ci saranno anche le prove. Esatto. Perché abbiamo fior fior di report adesso, ma anche abbiamo anche un super mega galattico ospite della 139esima puntata. Mamma mia, mamma mia. Perché in realtà quella lì in cui dovevo presentare te scatta alla settimana prossima. Ecco, confondiamo che è il nostro mestiere. Ma adesso direi per entrare un pochino, fare un po' dell'uno e un po' dell'altro, che sì. Mettiamo quel brano che hai scritto insieme a. Allora, che c'è anche un po' del, ma del, dell'errore. Ma vuoi che ti dica cos'è? Lo presentiamo. Un pochino, poi. Un secondo. E volevo scrivere una storia d'amore, una canzone su una storia d'amore tra una tardona e un giovane virgulto, no? Sai che rappresentano un po'. E allora l'avevo scritta per me, il Castodivo, e questa è una prova. È la prova della canzone, quella che vi faremo sentire fra qualche secondo. La mia ciliegina sei tu. In realtà il titolo originale originario era Comunione e Liberazione. E adesso sentiamo perché. E che abbia a che fare con gli errori del cuore, che dici? Quello dell'8 per mille mi gusta tantissimo. Ma il mio verso preferito è ma come dolce quest'unione, ieri hai preso la pensione. Vabbè, giustamente. Beh, allora, a questo punto ti presento, cioè, perché questa è la cosa che avremmo dovuto fare la settimana scorsa, ma perché ogni volta che si attribuisce il W a un nuovo co-conduttore, sì, ci vuole il W original a benedire, insomma, a dare la benedizione. Esatto, sì. Che fra l'altro è qui, se ce l'abbiamo ancora, il Pasqua original, Stefano W original. Oddio, W Pasquini, che emozione! Che è al duplice compito di certificare la tua dabitudine e introdurre il nostro ospite, che è genere, c'è una gragnocca sicura. Insomma, ero. Per saperne di più sulle gnocchitudini di Clelia, la puntata della settimana prossima è super consigliata. Non mancherò. Bravo Stefano, ma quando ti vedrò io? Ti sento solo guarda, così. Stasera purtroppo sono stato attirato da un'altra Clelia, che si chiama Clelia Rainone, invece sono venuto a Modena, alla Fondazione Modena Fotografia, a vedere una sua mostra. È nuovamente assente, giustificato. E altri, molti altri artisti, molto carina. Aspetta un attimo però, perché devo finire di dire che oltre a indabliarmi la Clelia Sedda, mi devi anche presentare il nostro super mega galattico ospite della 139esima puntata, che è voi avete, niente avete po' di meno un che... reperto storico. Eccolo. Un essere umano che ha partecipato come artista alla settimana della performance. Esatto, è lui. Tu sai chi è? Cioè, dovrebbe avere 108 anni, in realtà ha tipo la mia età, è giovanilissimo e giovanissimo. Pasquini. Il meraviglioso Gianni Colosimo, uno degli artisti più importanti di 20 in Italia, che purtroppo però non si calcola nessuno, perché come sappiamo... Il mondo è crudele, il mondo dell'arte è molto crudele, il mondo dell'arte italiano è doppiamente crudele e anche un po' mafioso. Beh, sentiamo un attimo la voce di Gianni per provare che ce l'abbiamo veramente qua e che non è nonostante tutto questo andato via. Sì, no, in effetti la leggenda, le leggende le creano gli outsider, come si dice, quindi quello che hai detto, ecco, conferma questa frase, questa mia citazione. Sentite che voce proprio da outsider totale, ma esatto, basta, scioltezza basta, meravigliosa. Esatto. Pasquini, è da tanto che non lo dico. Ma sta attento che te lo dico però. Dimmelo. No, non te lo dico ancora, ma se mi fai un'altra uscita così con i nostri super mega galattici ospiti. Ma l'ha trattato benissimo, cioè, secondo me. Qui abbiamo pezzi di storia dell'arte. Gianni, ma come sei così amato anche da Pasquini? Raccontaci. Ma Stefano è stata... ci siamo conosciuti... ad Artissima, in occasione... quindi nell'ultima Artissima... a novembre dell'anno scorso, ed è stata una bellissima sorpresa, perché ho avuto l'occasione di conoscere a mia volta un grande maestro. ma siete due grandi maestri voi due, di cosa siamo? Noi ci aduliamo continuamente. È meraviglioso, è bello che parliamo bene l'uno dell'altro, lo trovo delizioso. No, è perché c'è, appunto, tra outsiders ci si capisce subito, certo. Cioè, tra cani sciolti non basta un'occhiata e ci siamo capiti immediatamente. No, comunque lui è famosissimo davvero, a parte gli scherzi. No, è famosissimo davvero. E ce l'abbiamo qua, ce l'ho vicino, a fianco a me, è un'emozione incredibile, veramente. Posso anche toccarlo, l'ho toccato, ho visto. E io sono di là dal vetro, invece, come tu sai. Come tu sai. Cosa stai facendo là? Avete un artista che ha fatto causa al Guggenheim? No. questa adesso ce la racconti. Questa dopo ve la dovete far raccontare. E cos'altro potremmo farci raccontare dal qui presente Gianni, che ovviamente come tutti i grandi è molto umile sulle sue, e che fra l'altro io c'ho un attimo di paura anche di doverlo andare a brincare per la ponta. No, torna, rimani in trasmissione con noi. No, sei tranquilla, non si muove di qua. L'hai incatenato tu, certo. Là sotto il tavolo, bene. Quali opere conosci tu di Gianni Colosimo? Perché io ne conosco una, ma ne parleremo dopo. Niente, Pasqua è scappato. Ah, state parlando con me, non sì, avevo caro. Capito che la domanda era per me, pensavo che fosse per qualcun altro. No, per lì. Te, per te. Ah no, io conosco tutto il percorso di Gianni, per cui potrei scrivere una sua autobiografia non autorizzata. Soprattutto. E raccontarcene una? Cioè magari quella che conosco io. Ma poi potrei inventarmene qualcuno. No, sicuramente innanzitutto poi domani merita andarlo a vedere. Adesso non so se avete già annunciato. No, ancora no, bravo. Che però domani è un lancio perfetto a Bologna in una cosa pubblica. Sì, una giornata di studio proprio dedicata. Ma anche la performance che ha fatto a Setup qualche mese fa durante nei giorni di Arte Fiera. E tu in c'eri? Autostazione, dove ha, diciamo che ha raccolto l'attenzione di tutti i passanti con questi urli un po' particolari e questo e questa grossa tensione che ha funzionato molto bene, secondo me. Che urli erano? Quelli di cui parlavi prima? Era una sorta di linguaggio primordiale in cui esatto. Non si capisce, ma si capisce. Che magari poi ci farai qualche esempio verso la fine della puntata, forse. Ma sì, magari non so, dipendentemente da quante bottiglie di vino avete in studio, se penso che Gianni sarà in grado di riprodurre. Neanche una li abbiamo. Purtroppo, una. Caro Pasc, sono finiti le puntate del venerdì sera. È un professionista e sarà in grado di fare quattro urli per farci capire di che cosa stiamo parlando. Ottimo suggerimento, Pasc. Energia veramente primordiale. Dell'archetipo dell'uomo, cioè gli urli che ha fatto Gianni in questa performance sono gli urli che ci sono in ognuno di noi, ma semplicemente noi non li esportiamo, non li esprimiamo. Lui sì, invece ci riesce e riesce anche a farlo in modo estremamente suggestivo, no? Oh, qua io c'ho Tiberio che mi deve salutare. Posso salutarvi anch'io? Che, certo. Che qua io sono. Ma sono certo, ma facci salutare anche Tiberio da noi, cioè nel senso. Appunto. Vuoi che te lo passo? Lo vuoi mandare in studio? Salutaci! In studio al Cox. Tu lo conosci Tiberio? Sì, è un grandissimo collezionista. Capito? Esatto. È un grande collezionista e tra l'altro ha una delle opere più straordinarie che abbiamo in Italia, cioè che la mostrella in carrozza di Gino, se non vado errato. Stiamo parlando di te, Tiberio. Salutaci, no, passaci Tiberio a cucire le lodi della tua collezione, capito? Che carino. Cosa deve fare, giustamente. Comunque è tutto corretto, sono d'accordo, però vi devo salutare davvero. Grazie davvero, però. Grazie. Fatti registrare un po' di jingle, sai, di quelli sto ascoltando, Coxo Spaziale, dato che sei lì, okay, no? Perfetto, va bene. Adesso, lo faccio immediatamente. Okay. Ciao Stefano, grazie di ciao, tutto. Ciao Gianni, ci vediamo domattina. Ok, a domani. Un bacio. Anche a te. Ciao. Sì, domani mattina, perché più sta lontano dal Coxo e più la capacità radiofonica di Pasquini diventa enorme e precisa. Domani mattina, cioè, noi abbiamo qui Gianni Colosimo, questa colonna portante della performatività artistica contemporanea, perché domani lui interverrà ad un convegno, dico sì, bene. Una giornata di studi proprio dedicata alla presentazione degli atti del convegno. Ah, ok. Il titolo è Il corpo che abito, identità di genere e i suoi transiti. E quindi che domani tu interverrai con cosa pensavi di portare? Insomma, questa è una giornata di riferimento, cioè di approfondimento, proprio di riflesso a una giornata di studi che è avvenuta a febbraio sul tema del performativo, il corpo nel performativo, dal tuo punto di vista. E questo incontro è nato dal fatto che Mona Lisa Tina ha visto la mia performance qui a Bologna. Quella di Setup. Sì. E penso che l'abbia stimolata per invitarmi a questo convegno che si tiene domani nell'aula magna dell'università del DAMS, mi pare di Bologna. Perché Mona Lisa Tina è un artista, performer e arte terapeuta che insomma ha fatto del proprio corpo uno strumento di comunicazione estremamente vasto, se vogliamo. Quale potrebbe essere? Beh, intanto facciamo così, che ci sta a sto punto. performance, ricerca, teatro. Più performance, e anche un po' di questo. E c'è sta anche questo. Sì. Grazie Riccardo Lolli ed Enrico Farnedi per questi jingle, che sono i nostri storici jingle del Coxo. E ritornando a noi, quindi il corpo, cioè attraverso la performance, il corpo entra come lecitamente nella scena dell'arte di ricerca, dell'arte contemporanea. E adesso, senza essere troppo tecnici o quant'altro, che cosa comporta? Che cos'è? Beh, il corpo, senza il corpo non ci può essere performance, poiché la performance è l'unione di almeno due persone, di due corpi, uno agente, l'altro che osserva, quindi senza il corpo non ci può essere la performance. Pertanto è quella modalità dell'arte che nasce col futurismo, dalle avanguardie, che poi comunque prende piede principalmente verso gli anni 60, 70, e in pratica l'artista usa il proprio corpo per fare arte, no? E quindi l'opera è lui che agisce, che opera dal vivo. E quindi cioè, il tema non poteva che toccare il soggetto fondante della performance. Naturalmente verrà coniugato da diversi esperti, da altri artisti, e niente, spero che domani la cosa sia stimolante, interessante. Molto, ci sarà anche poi una parte invece speculativa, quella del professor Stefano Ferrari, no? Che è docente di psicologia dell'arte, quindi arte ma anche riflessione sull'arte. E di questo andremo poi a parlare nelle menzioni, perché te lo volevo tenere come una sorpresa, ma qua con Pasquini che è arrivato tutto quanto così, è entrato subito sul pezzo, mi devo sbottonare. Avremo Mona Lisattina al telefono dopo le pubblicità delle 7:30. Hai capito? Quindi quanto tempo abbiamo adesso? Adesso abbiamo giusto quel pochino per, visto che del convegno, poi degli atti del convegno ce ne parlerà Mona Lisa, potremmo provare a vedere quell'aneddotino che volevi scoprire, che hai scoperto, che sapevi su di Gianni, oppure anche qualche cosa che Gianni può raccontarci di pertinente per far capire un po' meglio noi, ecco, che siamo un po' a secco, che cos'è la performance. Esatto, tu considera che tutti gli ascoltatori siano per la maggior parte ignoranti come me, e quindi devi raccontare chi sei, no? No, nel senso che io poi in realtà quando mi hai accennato quelle due parole ho capito perfettamente chi fossi. Dillo agli altri. E adesso le facciamo dire la sua boccuccia di rosa. Dalla sua boccuccia di rosa. Sono veramente imbarazzato. No. Ragione. Facciamo di tutto per metterti a tuo disagio. Sono molto confuso, in effetti. È quello che vogliamo, perché dare il meglio. E veramente. Questo è meraviglioso, la confusione è straordinaria, perché quando faccio delle opere, quando faccio le performance, mi piace creare dei dubbi, quindi porre lo spettatore nella condizione dell'incertezza, della confusione, cioè come hanno fatto molto bene queste due fanciulle qui con me. Clelia W. Fedda. E Fedra Boscaro, sempre quella, insomma, ormai. No, infatti è perfetta questa cosa. Tu mi dicevi che il tipo di lavoro che fai ti consente di agire in modo assolutamente libero. Cioè, tu non volevi fare lo schiavo mai, di la verità. Tu non volevi fare lo schiavo. Forse questo ci unisce. No, in effetti ciò che mi preme è mantenere, special modo durante, cioè nell'elaborazione della performance, una totale libertà. Cioè non mi va assolutamente di sottostare agli schemi, alle regole e quant'altro. Cioè, quando agisco voglio essere io colui che decide di questa, operare. E questa è una cosa fantastica, sai perché? Perché evidentemente questa libertà la usi talmente tanto bene che la gente ne vuole a pacchi. Cioè, la cosa bella non è che tu sia libero, ma che la gente ne voglia a pacchi da te. E invece quello che volevo entrare un pochino più, quindi la performance è un momento di espressione liberata da un contesto, da un passato, da un presente, è un momento, da un passato, da un futuro, è un momento di espressione pura, potremmo dire così? Beh sì, mi piacerebbe che lo fosse, perché cioè, secondo me per poter porre dei dubbi devi agire e fare un qualcosa che in qualche modo stimola il pubblico nella gli stimola la possibilità di vedere la realtà in modo distorto, diverso, non abituale, con nuove prospettive, nuovi angoli, e questo appunto secondo me dovrebbe fare l'arte, dovrebbe fare e soprattutto, il performer. Scusa, ma poi l'arte secondo me, in particolare forse quello che mi hai raccontato tu, non ha niente a che fare con la purezza, è proprio il contrario. Cioè, è libera, però non è assolutamente pura, perché si riferisce a tutt'altro che la purezza. È scarto da contaminazione, e non voglio fare quella troppo intelligente perché non occorre. Però la parola scarto c'entra, perché in realtà è una provocazione, che è un'azione che viene fatta per provocare uno scarto da quella che invece è la percezione che uno assume in maniera coatta dalla mattina. Sai che ti capitano queste cose, sai che se incontri uno per strada devi dire queste cose, e se invece ti trovi con qualcosa che unisce, usa altri schemi comunicativi, magari ti fermi e dici, ma e metti in dubbio questa sistematicità. Sì, però appunto nulla di puro, ma tutto molto strumentato in realtà. Poi certo, è usata la libertà per mediarlo, no? Perché tu sei assolutamente libero. Oh, ti conosco da poco e già so un sacco di cose. Poi Fedra ha detto delle cose meravigliose. Perché... Grazie Gianni, grazie Gianni, dimmelo ancora. Con questo sapete cosa faccio? Bella la carica. Metto le pubblicità dalle 7:30. Con un saluto anche a Pier Mattei che ci ascolta. Sono Paolo Pier Mattei e sto ascoltando Coxo Spaziale. Che voce. Coxo Spaziale, Coxo Spaziale. Coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale. E bentornati alla 139esima scoppiettante megagalattica puntata, 139esima puntata del Coxo. Perdo i pezzi per la strada, ma li ritrovo tutti. Grazie, continua così, Clelia, Super W, Zed, anche tu. E, allora, quindi, adesso c'è quella cosa che... No, aspetta, quella cosa lì che c'ha questo jingle qua. Sei pronta per la tua prima volta in diretta? Non lo so, forse sì. Senti, senti. L'angolo della menzione. Clelia W. Sedda, questo volevo dire io. No, questo era l'inizio. Ah, cosa devo dire? No, adesso siamo nell'angolo della menzione e menzioniamo. Vabbè, menzioniamo okay. Proprio quell'evento che è il motivo per cui il grande Gianni Colosimo è qui con noi e allora onora il Coxo della sua presenza. E in effetti questo dovevo dire, io dovevo dire che venerdì 15, è così, sì. Alle 9:30. Dalle 9:30, perché poi va avanti. Inizia alle 9:30, cara, però bisogna essere chiari quando si danno le informazioni. Sì. Il corpo che abito, dove? All'Aula Magna Santa Cristina. C'è una giornata di studi dedicata alla presentazione degli atti del convegno Il corpo che abito, appunto. Identità di genere e studi transiti. Analisi dei linguaggi performativi contemporanei organizzato lo scorso febbraio presso il Dipartimento delle Arti dall'artista, performer e arte terapeuta Mona Lisa Tina e dal professor Stefano Ferrari, che come tutti sapete è docente di psicologia dell'arte. La giornata prevede il contributo di diversi artisti e teorici, tra cui possiamo segnalare il nostro ospite meraviglioso, cioè Gianni Colosimo, Silvia Grandi, Roberto Pinto, Dino Ferruzzi, Porpora Marcasciano e Martina Corgnati. E con questa vocina qua lo dico, Martina Corgnati. E inoltre c'è la super mega galattica sorpresa, che questa è una menzione con Telefonica. Infatti, come abbiamo un attimino anticipato prima, abbiamo in linea, se sempre che abbia retto il collegamento telefonico, Mona Lisa Tina, sei qui con noi? Sono qui con voi, buonasera a tutti. Buonasera, che piacere sentire la sua voce. Ciao Mona Lisa, sono Gianni, ciao. Ciao Gianni, ciao Fedra. Allora, prima abbiamo provato a chiedere a Gianni qualcosina di più specifico, ma non si è fatto scappare nulla. Quindi chiediamo direttamente a te. Che cosa succede domani? Allora, domani è una giornata di studio all'interno della quale diversi professionisti, quindi critici e artisti, interverranno su un tema che ho fortemente voluto analizzare sia l'anno scorso, ma in modo specifico e forse anche in modo più approfondito domani, sul tema del corpo. E sarà anche l'occasione per presentare il volume, la casa editrice è Nikon, ed è un volume che raccoglie sostanzialmente quasi tutti i testi dei relatori che hanno partecipato all'esperienza del convegno dell'anno scorso. Nell'occasione di domani, appunto, cercheremo di riflettere ulteriormente su questo argomento e cercheremo anche di stimolare il pubblico. La giornata è aperta sia ai vari studenti, quindi sia agli studenti del corso di psicologia dell'arte, ma in generale a tutti gli studenti del Dipartimento delle Arti Visive, Performative e Multimediali dell'Università di Bologna, e anche ai curiosi e addetti ai lavori vari. Quindi l'intenzione è quella anche di creare un momento di dialogo e di dibattito alla fine, appunto, di questi temi che verranno analizzati da più prospettive. Quindi io spero che sarà come l'anno scorso una giornata interessante e che magari possa aprire anche una serie di altri cicli di incontri, magari l'anno prossimo in altre sedi. Allora, prima a favore di noi stesse, io e la co-conduttrice, che i nostri ambiti sono diversi se vogliamo, e anche delle eventuali persone che ci stanno ascoltando, che in realtà di performing arts non hanno ancora incontrato, abbiamo provato a chiedere a Gianni qualche indicazione su come far passare questa, su qualche cosa, sulle specificità, potremmo dire, di questa declinazione del fare arte. Possiamo provare a porre anche a te la stessa domanda? Allora, io certo, come no, naturalmente la mia risposta parte dalla mia prospettiva teorica, o per meglio dire esperienziale, nel senso che ho sempre utilizzato il corpo come uno strumento di comunicazione profondo nei confronti degli altri e quindi nei confronti del mondo. Io credo che nonostante l'Italia, ma l'Europa in generale, abbiano comunque avuto un percorso legato al linguaggio dell'arte molto stratificato e strutturato, credo che ci sia comunque la necessità di continuare a fare riflessioni su questo tema e su questo ambito, naturalmente all'interno delle arti visive. E tengo a sottolineare il fatto che il linguaggio performativo, almeno credo, ma penso sia in ogni caso così, che nasca dalle arti visive e non dal teatro sperimentale. Questo significa che è una dimensione estremamente, come posso spiegare, diretta, ma che si avvale non solo del corpo, soprattutto oggi, ma anche di altri media, come per esempio il video o l'intervento audio durante un intervento performativo tra l'artista, appunto, e il pubblico. E certamente forse questo non è la sede o non abbiamo le tempistiche giuste per poter approfondire, per questo motivo appunto credo che vedremo domani possa essere sì, ci vediamo sicuramente domani e invece rimanendo al Cox, ovviamente prima o poi mi verrai a trovare, magari potremo anche co-condurre insieme una puntata, proprio per andare a capire meglio, una puntata o un mese di puntate, appunto per capire meglio che cos'è il performativo e questa realtà a Bologna e in Emilia Romagna eccetera, sì, eccetera. Sì. Ma con grandissimo piacere, sarebbe davvero straordinario, anche perché penso che si possa avere in questo modo l'opportunità di raggiungere un pubblico diverso e anche più ampio, e cercare di divulgare questo linguaggio non solo attraverso contesti specifici come gallerie d'arte contemporanea, musei o accademie o dipartimenti di arti visive, ma anche attraverso altri media, come può essere un programma radiofonico come il vostro, sempre molto all'avanguardia e interessante. Grazie, Mona Lisa, ti adoro, viva Super W anche a te. Allora ci vediamo domani, e domani al convegno, una giornata intensissima, e poi progettiamo anche quando arrivi al Coxo. Aula Magna Santa Cristina, ricordatevi. Comunque da domani tutti i link di riferimento per approfondire anche la programmazione su www.coxospaziale.blogspot.com. Grazie ancora Mona Lisa, a domani. Grazie. Ciao Mona Lisa, grazie. Ciao, a domani. A domani. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ah, non si sente la fisarmonica nostalgica che finisce il brano? È di una tristezza infinita. Ma come? Sta di contro a Digging the Grave, tutto allegro, sulla tomba del morto, 44 morti. Gatti in fila per tre. Col whisky e le bottiglie. E va bene, ma noi non ci facciamo distrarre, che fino a qua ci stanno dicendo le due presenze misteriose, di cui poi forse sentiremo anche la voce tra un pochino, che stiamo andando bene. Perciò continuiamo, riprendiamo da dove eravamo rimasti. L'angolo della menzione. Ecco io a questo. No, è la mia prima volta. Ti capisco, e anche qui sono un po' ok. Tutto sbagliato. No, ma l'errore aiuta tramite lo scarto alla norma a recuperare un nuovo senso di contestualizzazione. Ah, sì, adesso imparerò bene che cosa sono questi gingoletti. Senti, perché non facciamo leggerlo invece a lei? Alla voce misteriosa. Sì, la voce misteriosa. Guarda, leggi qua. Allora, pronta? Ciao a tutti. Ore 21. Allora, sabato 16. Sabato 16. Dai, sabato 16, ore 21, gemme della sera, TPO. Continuano gli appuntamenti con le gemme mensili organizzate da CBO, Contact Bologna. Questo mese, dalle 21, si balla al TPO. Per quanti volessero partecipare alla cena condivisa, l'appuntamento è alle 20. Le gem, come di consueto, è offerta massima di 3 euro. È la sua prima volta, brava. È la sua prima, magari poi ci sarà la seconda, ma noi continuiamo imperterriti. Quindi di nuovo uno stacchetto per la prima volta di questa voce. Così. Celebriamo le prime volte. E poi andiamo avanti con domenica 17, ore 16. Chi va? Tu! Io? Va bene, che sono notamente dislessica, quindi chiunque mi perdoni, ma da domani su www.coxospaziale.blogspot.com potrà trovare tutto il testo e il link di riferimento. Quindi, La goccia e la fiamma al Teatro Ridotto, Torna alle menzioni del Coxo il teatro di Danilo De Summa e tornano gli immancabili appuntamenti della domenica con il teatro ridotto e la merenda sospesa. Uno spettacolo rivolto ad un pubblico che può andare dai 5 ai 12 anni, ma che per i temi affrontati può anche parlare ad un pubblico più adulto che ha voglia di calarsi in un mondo magico e riscoprire la bellezza e l'importanza di mantenere vivo il proprio bambino interiore. Ma sei bravissima. Ma mi sono anche commossa mano a mano che sì, lo leggevo. Intanto che lo leggevi anch'io un po' mi commuovevo. E però c'è anche da dire che qui abbiamo niente po' di meno che un'altra super mega galattica ospite telefonica. Ma non ci faceva mancare niente. Abbiamo oggi Francesca Ancona che direttamente dal Teatro Ridotto ci fa un report su cosa sta succedendo con le merende sospese quest'anno. Perfetto. Ciao Francesca, ci bene, sei ancora ci o ti abbiamo fatto scappare? Ci sono. Grazie. A parte allora, bellissimo merenda sospesa. Complimenti, bello. Francesca, mi senti? È un'idea del direttore. Molto bello. Direttore artistico Lorenzo Filippetti. Allora, brevemente, che cos'è la merenda sospesa? È una rassegna teatrale rivolta a bambini e famiglie che è giunta alla sua quarta edizione quest'anno. E l'idea nasce appunto dal 2012 dal direttore artistico che ha voluto, diciamo così, far convergere l'idea del teatro e della cultura del mangiar sano come momento di condivisione. Infatti ogni appuntamento della rassegna si compone di due momenti. Abbiamo quindi lo spettacolo, che il prossimo 17 aprile sarà appunto La goccia e la fiamma, a cui segue poi una merenda a base di frutta di stagione offerta a tutti i presenti. E la mangiano la frutta? I bambini? Con la frutta, sì, ma i bambini la mangiano, bravi. Assicurare che la mangiano. Vabbè, certo, poi qualche biscottino bisogna anche metterglielo. Quindi una mela nascosta tra due wafer. Ascolta, perché La goccia e la fiamma? È lo spettacolo di Danilo, perché il titolo? Perché il titolo, La goccia e la fiamma? Sì. Oddio, questo bisognerebbe chiederlo a Danilo. Che non c'è e non lo sapremo se non vivendo. E non venendo. Lo sapremo, esatto. Verremo domenica 17 allora, esatto, a vederlo. Venite domenica e lo scoprirete. Comunque dai 5 ai 12 dire. Anni, dai, vero? Dai 5 ai 12. Mm-hmm, perfetto. Questo spettacolo sì, però abbiamo anche spettacoli che vanno bene anche per bambini dai 3 anni, dipende ovviamente. Mm-hmm. La rassegna comunque ha 13 appuntamenti e continua anche fino al 22 maggio. Abbiamo un altro appuntamento l'8 maggio, sì, che si intitola Un bastimento carico di, e anche qui se volete sapere carico di cosa dovremo vivere fino a quel giorno. Esatto. E poi l'ultimo spettacolo appunto il 22 maggio, che è di una compagnia piemontese, Teatro a Canone, che si chiama Pizzica la Luna, l'ultimo viaggio del piccolo principe. Ecco, grazie allora. Ma questi quindi sono gli appuntamenti, vi aspettiamo e basta. Do anche il sito così. Ma no, il sito da domani si riesce, mettiamo direttamente il link da www.coxospaziale.blogspot.com dove si potrà riascoltare questa puntata. Ti chiedo un'ultima cosa. Io sono molto attenta e grata al lavoro che il Teatro Ridotto fa sul territorio e la merenda sospesa secondo me è un esempio eccelso di come il lavoro contemporaneo può insistere sulla ricreazione di un tessuto, ricreazione con merenda, che gioco di parole, che sottile che sei, troppo. No, vabbè, comunque quindi la merenda continua e la questa sospensione continua a magari assolutamente sì, il pubblico è sempre più numeroso e quindi insomma siamo contenti. Bene, bravissimi, stacchetto anche voi e grazie ancora Francesca, okay, ancora per essere stati con noi e ci vediamo domenica anche con Danilo. Ciao. Grazie mille. Ciao Roberta. Che fra l'altro io ero qui che cercavo perché avevamo anche Danilo De Summa che ci ascoltava, ma non l'ho trovato. Aia. La mettiamo la prossima volta allora. Ah, ma ce l'avevi proprio Danilo? C'avevo il gingolino, sono Danilo De Summa e sto ascoltando Coxo Spaziale. Ma che peccato. Sì, tanto c'ha la voce sexy anche lui, sai, sì, come Pier Mattei, adesso come Colosimo. Infatti adesso dobbiamo registrare anche lui, E invece noi continuiamo imperterriti con l'ultima. Te. L'angolo della menzione. con l'ultima menzione dell'angolo della menzione di oggi, che è una menzione che, cavoli, ve la segnalo con mucho gusto, perché in realtà Andreco, secondo me, è uno degli dei giovani artisti che, fra l'altro, abitano anche qua a Bologna, che sono tra i più tosti, sì. E perciò open call. Che cosa vuol dire, scusa, open call? No, chiamata mille. Aperta a tutti! Ecco, chiamiamola così, chiamata aperta a tutti. Avete tempo fino a mercoledì 20 per partecipare ai workshop e alla performance di Andreco, The Rock Slide and the Woods, che avrà luogo a Centrale Fies DRO a Trento. Ah, in lontano. Sì, ma la DRO poi è una sorta di fucina del contemporaneo, quindi del performativo dal lato teatrale rispetto a quello di cui parlava Mona Lisa Tina, che infatti mi piacerebbe un sacco andare ad approfondire. Infatti ci andrai, infatti. Sì, ma anche vorrei portarmela qua. Comunque, in occasione di World Breaks Festival DRO de Sera 2016. Vedi, come tu dici tu, World Breaks, lo dici tutto bene, ridirlo. World Breaks, no, perché c'ho la scimmia di Pasquini che ogni volta mi bacchettava sulle pronunce, quindi mi sono fatta un po' però fortuna che non c'è, perché sennò brava. Vabbè, informazioni sono tutte cose che poi troverete domani anche sul nostro blog, però ci tengo a leggervi. La chiamata è diretta a chi intende vivere un'esperienza a contatto con la natura, mettersi in gioco e condividere momenti di ricerca, sperimentazioni ed azione, e non è indispensabile essere un attore professionista. Verrà data la precedenza anche a chi è appassionato di boschi e montagna ed ha familiarità con questi ambienti naturali, performance, danzatrici, danzatori, attori, attrici, scalatori, scalatrici, appassionati di montagna, free climbers e alpinisti. Però anche come dici free climbers, lo dici molto bene, ridillo. Free climbers. Mamma mia, che bello. Che non è scalatori liberi, ma è scalatori di alberi. Infatti, ho sbagliato, quindi la pronuncia. Vabbè, comunque vedevo qualcuno che smanettava lì a tuo lato. C'è lei che vuole venire assolutamente. Fa bene, ma quasi ci vado anch'io. Cioè, faccio anch'io la risposta. Chissà mai. No, perché voi non sapete, ma qua, insieme al nostro straordinario ospite con quella voce bassa. Che però non è ancora finito, perché noi dobbiamo spremerlo un altro po'. Adesso lo spremeremo bene. Ci sono due tirocinanti dell'Error Day, tal Rosita Pavese, emozionata, gote rosse, un amore. E tu dillo il tuo nome, dillo. No, non lo può dire perché dice che è una pronuncia sarda troppo forte, c'ha le doppie, e invece sono bellissime, tra l'altro. Ma sì, io adoro le pronunce. Dillo proprio, devi riuscire a dire il tuo nome, dillo il tuo nome, forza, dillo. Facciamo così. Allora, intanto mettiamo questo brano qua, così si prendono un attimo la carica e poi ritorniamo sul pezzo del nome e sul pezzo con il nostro super mega galattico ospite della ceduta della mesina puntata del coso. E ha un inizio un po' lungo, però è quella che ti ho fatto sentire l'altro giorno. Ah, quella carina, quella molto. Tua, sì, proprio quella. Quella bellissima. Lì. Che bravo lui, sì. Come si chiama? De Leo, John De Leo. Ma proprio bravo, sì. Lungo, ma bravo. Lungo. E tu no, siamo più di te, sempre uno più di te, da grande se avrei l'autorità, non giochi più tutta la vita, maestra. Il bambino marrone ci sputa, vedrai adesso ti metti a posto, maestra, perché ce le dai, tu no. Come no? Vedi come sono bravi? Tu no, tutti tranne te. Noi sì e tu niente, da grande se potrei imparerai. Parli anche tu la nostra lingua, papà. Il bambino marrone ci puzza. Vediamo adesso chi vuoi far fesso. Ma papà, perché ce le dai? Tu no e no. Come sono tutti bravi, sono tutti bravi, ma vediamo se è brava anche la Clelia. Insomma, io mi impegno moltissimo, ma non so se sono bravissima, so. Ah, allora. Sì, allora, galleria è quello, vero? Sì. La PAC, Milano. Ma io ti devo interrogare. Sì, mi devi interrogare. Ma siamo in diretta? No. Sì. Ah, siamo già in diretta. No. Scusami. No, vi chiedo scusa se vi ho interrotto io, ma lì in realtà dall'altra parte del vetro ho dovuto anche un po' interrompere perché era partita un'interrogazione. No, perché io me la tiravo dicendo, ma sì, certo, ti conoscono tutti, ti conosco anch'io, ti conosco benissimo. Lì, sì, ma dove? E gli ho detto, al PAC di Milano. Infatti, qual è l'opera mia più importante, più famosa? La più importante è quella pazzesca dove tu hai ricoperto 250 metri quadri di biglietti da un dollaro, no? Ma veri! Ma quanti? 250 metri quadri, quanti è questo? E quindi vabbè, ma c'era 250 metri quadri era il pavimento, poi naturalmente c'erano tutte le pareti. Ma quanto hai speso per farla? Scusa. No, ho utilizzato $120,000 per fare questa magnifico, installazione. Magnifico. Ma il titolo è allora aspetta, è Wallpaper. No? No, non sbirciare, non suggerite voi, non suggerite. Il vortice del desiderio è privo d'orizzonte. Ma la Madonna, sapeva, la sapeva. Ed è un titolo meraviglioso. Bellissimo. Fra l'altro. Sì, è l'opera per la quale spero di essere ricordato dai posteri. Ah, sicuro, perché un'opera del genere è incredibile, impensabile. Ma no? Sì, anche perché poi ha avuto delle vicissitudini, delle storie molto curiose questa installazione. Cioè? Nel senso che nel 2000, io feci questa installazione nel 2006 a Milano alla Galleria PAC, poi nel 2011 un grande maestro tedesco, Hans-Peter Feldmann, ha rifatto, più o meno alla mia maniera, la stessa installazione al Guggenheim di New York. Ah, però. Nel 2011. Per cui nel 2011 Feldmann, che aveva vinto il premio Hugo Boss per l'arte, espose il premio, i suoi $100,000, e però lo fece alla mia maniera, quindi tappezzando un intero ambiente del Guggenheim con dollari da uno. Allorché io con i miei, cioè, mandai una lettera al Guggenheim per dire scusate, ma vorrei che fosse menzionata anche la mia, già che di citazione si trattava. Se vogliamo essere chiari, sì, no, vorrei che in qualche modo fosse ricordata anche la mia installazione, perché altrimenti io in automatico vengo cancellato. Certo. Cioè la mia proposizione estetica, ma dimmi te, viene cancellata, no? Che anche nel mondo dell'arte capitano queste cose. Ma no, ma è stata una bellissima sorpresa e sono molto contento che Hans-Peter Feldmann, che era in buona fede naturalmente, certo, abbia fatto questa mostra al Guggenheim. anche perché mi ha permesso indirettamente di esporre io stesso, certo, al Guggenheim, certo, senza fare nulla. Poi tutti mi conoscono per la mia grandissima pigrizia, per cui che infatti, cioè, anche qua fatto, ti ha copiato e ti ha dato tutto lo spazio per così per svettare, no, per cui inizialmente il Guggenheim, che naturalmente non sapeva chi fossi, pensava che io un mitomane distrattone di sto Guggenheim, e per cui mi dissero: ma cosa vuoi? Cioè, io chiesi di dire fate una rettifica, allora, e loro mi hanno risposto: ma come ti permetti di dirci cosa dobbiamo fare? No, a noi del Guggenheim come ti permetti, Gianni Colosi? Ma tu cosa gli hai risposto? E allora a questo punto con i miei avvocati abbiamo iniziato la causa a Torino e abbiamo impostato la causa, allorché il Guggenheim ti ha preso sul serio, hanno visto veramente una scheggia vagante pericolosissima che si... e allora a questo punto hanno calato le braghe e abbiamo trovato un accordo, insomma. Insomma, per me è stato soddisfacente comunque. Ma per me è stata straordinaria, nel senso che insomma e sfidare in qualche modo il Guggenheim è stato ma magnifico, ha sfidato il Guggenheim. No, questo è super mega galattico e colossale. Ed sono fiera che Gianni Colosimo sia stato l'ospite per speciale mega galattico dell'ultima della 139esima puntata di Coxo Spaziale, che si conclude qui, però è finale in quasi, perfetto, in quasi ritardo multiplo, e dopo le cause con il Guggenheim noi invece noi andiamo con le spettacolari pubblicità delle 8. Così. E ciao allora. E ciao a tutti allora. Ciao a tutti. E ciao, dillo anche tu. Ciao a tutti. A domani. Grazie al pubblico, grazie alle splendide ragazze. Ciao. Grazie per le splendide ragazze. Diceva noi ovviamente, Fedor, non ai tirocinanti. No, vabbè, lasciamo perdere. Di grazia ce n'è in abbondanza. A domani con Gianni Colosimo, a tra una settimana con noi, con Clelia da Investe W7 per il mese d'aprile. E sì, c'è questa cosa qui, però è perché adesso ci sono le pubblicità, non ci devo mica essere io.